Respiro. Capitolo primo. Principi generali. 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. 2. Qualsiasi utilizzo delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. 4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali. Questa che avete sentito è una parte, l'inizio della legge Galli sull'acqua, una legge del 94 che secondo alcuni andrebbe rivista, ma che di fatto regola, come avete sentito, un patrimonio che è di tutti. Ma è davvero così? L'acqua in Italia è davvero di tutti? Intanto buongiorno da Cristina Carpinelli e benvenuti a Respiro. Parliamo dunque di acqua. L'acqua potabile è buona? È più buona di quella in bottiglia? L'acqua potabile è distribuita equamente? Costa in ogni città lo stesso prezzo? E chi fa il prezzo? E la criminalità organizzata quanto lavora ed è interessata all'acqua? Dunque, partiamo da qui. Facciamo un salto indietro. Nel maggio del 2002 la Sicilia, almeno una parte, si ritrovò senza acqua. Forse alcuni di voi lo ricordano. La notizia balzò sulle prime pagine dei giornali. È inutile dire che ogni anno, quando il caldo aumenta, in molti paesini e città della Sicilia, come anche in Calabria e Campania, la gente ha l'acqua a singhiozzo e in alcune fasce orarie e a volte non la vede per giorni. Ma perché si entra in emergenza e chi gestisce questa emergenza? Nel 2002 la regione Sicilia chiese l'intervento dell'esercito per difendere l'acqua dalla mafia, perché la mafia si allaccia alle tubature e neanche tanto di nascosto, succhia l'acqua e la rivende a caro prezzo quando arriva l'emergenza. Tra le fila della mafia ci sono scagnozzi da pochi soldi che però hanno fatto una fortuna rivendendo un bene di tutti, l'acqua, e ora dettano legge e prezzo. Nel mezzogiorno 200.000 chilometri di acquedotti perdono, lungo la penisola, 27 litri ogni 100 per falle della rete o a causa dei furti e degli allacciamenti abusivi. Il capitolo investimenti per opere inutili è ancora più interessante. Un esempio è la diga sul Metramo, sulle montagne dell'Aspromonte. 30 anni di lavoro per una costruzione che doveva essere la diga più alta d'Europa, con 104 metri di profondità. Doveva contenere 30 milioni di metri cubi d'acqua. Doveva servire il quinto centro siderurgico nazionale, un polo dell'acciaio però mai decollato. Doveva costare 15 miliardi di lire, ma, e la stima è solo per difetto, è costata 410 milioni di euro. Oggetto delle attenzioni della magistratura, dietro i cantieri c'era la lunga mano della criminalità organizzata. Queste sono due storie che vi abbiamo raccontato e che riguardano il tema dell'acqua e che ruotano attorno all'acqua. E come avete capito, attorno a questo tema ci sono parecchi interessi. Chi è responsabile? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Gabito di Legambiente, che in Legambiente si occupa di acqua. La responsabilità sta in questa cialtroneria diffusa, dove non si riesce a fare, ad avere governo di destra e di sinistra che ha un'idea comune sulla gestione dell'acqua. Sono valanghe di enti che gestiscono l'acqua, ma ognuno per conto suo, ognuno alla fine, tu ti ritrovi con lo stato di emergenza. Però lo stato di emergenza è l'unico strumento che consente poi allo Stato di intervenire e mettere tutto intorno a un tavolo e dire: cari idroelettrici, voi in montagna adesso mi rilasciate 8 milioni di metri cubi d'acqua, se no io non riesco ad avere l'acqua sufficiente ai laghi per la stagione turistica e non riesco a avere l'acqua per l'agricoltura, eccetera, eccetera. Il quadro generale non è dunque incoraggiante. Ora però facciamo un focus proprio sull'acqua potabile, partendo da un'inchiesta pubblicata da Altro Consumo. Claudia Chiozzotto è una delle curatrici della ricerca. Ancora una volta, in seguito all'ultima inchiesta che risale a 3 anni fa, al 2006, siamo tornati nelle principali piazze italiane, in 35 città italiane, per prelevare l'acqua delle fontanelle pubbliche presenti appunto in centro città e spedirle in laboratorio per delle analisi secondo il decreto 31/2001, che è quello che regolamenta le acque destinate al consumo umano. Le città sono state scelte per importanza regionale e geografica, ma anche per arrivare appunto al numero di 35 città tra quelle che sospettavamo potessero avere dei problemi di qualità delle acque potabili appunto. quindi il panorama appunto non è chiaramente dettagliato a livello territoriale, però abbiamo ripreso lo stesso campione di 3 anni fa proprio per fare un paragone e dare una certa continuità al nostro lavoro delle inchieste sull'acqua. Ecco, da queste inchieste emerge che l'acqua potabile è molto buona in Italia, ci sono proprio picchi di bontà in alcune città del sud, no? Ci puoi descrivere un po' la mappa d'Italia in questo senso? Sì, i parametri che abbiamo scelto noi naturalmente non sono tutti quelli previsti dalla legge, ci siamo focalizzati su alcuni criteri di qualità delle acque come la durezza, il residuo secco, i nitrati, il sodio, che sono sostanze con cui i consumatori e i cittadini hanno già un po' di confidenza, soprattutto per la pubblicità che ne fanno le acque minerali. Poi abbiamo scelto naturalmente alcuni parametri critici che sono i solventi e i sottoprodotti di disinfezione, e per la prima volta invece ci siamo occupati anche dei sospetti perturbatori endocrini, che sono delle sostanze che possono avere un effetto di interferenza con gli ormoni del nostro organismo, e quindi per la prima volta appunto abbiamo scelto di fare analisi più sofisticate per vedere se sono presenti e in che quantità sono presenti negli acquedotti italiani. Come è andata? I risultati appunto sono buoni anche questa volta. Abbiamo dovuto bocciare in pieno una città, che è Reggio Calabria, per una presenza eccessiva di sali dovuta all'infiltrazione di acqua marina. È un problema questo di molte città costiere che sappiamo, e quindi abbiamo incontrato anche questa volta nella nostra inchiesta proprio un'acqua non potabile per eccessivo contenuto salino. Di tutti gli altri campioni possiamo dirci assolutamente soddisfatti per i parametri che abbiamo analizzato. Abbiamo penalizzato altre due città, che sono Lecce e Ferrara, per una presenza diciamo di diverse sostanze, tutte tranquillamente al di sotto dei limiti di legge, però insomma quando in un'acqua troviamo sia un po' di solventi che trialometani che perturbatori endocrini, gli diamo comunque un giudizio negativo. Ecco, il titolo di questa inchiesta, di questa ricerca è Non restare imbottigliato, dunque un'esortazione a tornare al rubinetto, ma come va in questo senso? La tendenza è questa, la gente sta tornando a bere l'acqua del rubinetto, e l'altra domanda è come mai la gente ha cominciato a comprare l'acqua in bottiglia? Sì, gli italiani sono i principali consumatori di acque minerali in Europa e forse nel mondo. Ultimamente c'è una leggera flessione del mercato del consumo delle acque minerali anche in Italia, quindi non sappiamo se appunto più cittadini si rivolgono, tornano a rivolgersi all'acqua del rubinetto, oppure se c'è anche un uso un po' più massiccio dei depuratori, insomma degli apparecchi a rubinetto che migliorano le qualità dell'acqua in casa. Comunque appunto la nostra campagna è un'esortazione soprattutto a informarsi della qualità dell'acqua che arriva in casa propria, perché in molti casi i cittadini sono vittime ancora di pregiudizi che affondano le radici magari in 10-20 anni fa, quando c'è stata una contaminazione di atrazina della falda acquifera. Ecco, come si fa ad avere informazioni sulla propria acqua? A chi ci si rivolge? Quello che noi invitiamo sempre a fare, ormai molti acquedotti hanno degli uffici per le relazioni con il pubblico o dei numeri verdi ai quali rivolgersi. Ci sono diverse aperture, soprattutto in alcune città del nord Italia, siamo a conoscenza di questo, di una promozione che gli acquedotti fanno anche della qualità dell'acqua erogata presso i cittadini, quindi invitiamo i cittadini a sfruttare questi canali quando sono ovviamente reperibili, accessibili, per chiedere direttamente all'acquedotto dati sulle ultime analisi effettuate dell'acqua consegnata a casa propria, nel proprio distretto, perché molte volte questi risultati sono tranquillamente disponibili, accessibili, e gli acquedotti sono anche proprio intenzionati a fare della qualità della propria acqua proprio un vanto, quindi cercare sui siti internet del proprio acquedotto oppure rivolgersi al numero verde o al numero per le relazioni con il pubblico per avere proprio informazioni dettagliate sulle analisi effettuate dall'acquedotto e dalle ASL sull'acqua messa in rete dall'acquedotto. Ecco, a questo punto entriamo nel merito di un'altra questione: l'acqua potabile non ha lo stesso costo città per città, cioè ci sono città che pagano, in cui i cittadini pagano molto di più l'acqua che bevono, l'acqua che usano nelle loro case, così? Sì, è così. Infatti in questa inchiesta abbiamo voluto appunto scoperchiare anche il vaso di Pandora delle tariffe del servizio idrico, perché l'Italia è suddivisa per la gestione del servizio idrico in ambiti territoriali ottimali, ed è nelle mani di questi enti che praticamente sta la definizione della tariffa che i consumatori cittadini pagano per il servizio idrico. Ci sono moltissime differenze sul territorio nazionale. A nostro avviso, insomma, per quello che abbiamo potuto indagare e capire noi, non sempre giustificate, perché se da un lato è giusto che un'acqua che richiede maggiori trattamenti o una zona più vittima della siccità debba far pagare il servizio idrico un po' di più rispetto a, a una zona dove l'acqua è tranquillamente disponibile e di buona qualità, in realtà le differenze sono tali da non essere legate semplicemente alla qualità dell'acqua. Ecco, ci fai qualche esempio? Sì, ad esempio a Firenze si paga in media 448 euro all'anno per un consumo medio di una famiglia di 3 persone, quindi è una bolletta che si avvicina ai costi della bolletta dell'elettricità, quindi mentre per altre città, ad esempio Milano, Venezia, il costo annuo è di 110-150 euro per la stessa famiglia, quindi le differenze sono molto forti e molto spesso sono legate più che altro a anomalie di funzione e di gestione del servizio idrico da parte dell'ente che è preposto quindi sono aspetti su cui soltanto i cittadini localmente possono essere vigili. Sappiamo che su questo tema ci sono molti gruppi molto attivi, insomma, per i comitati per l'acqua pubblica, in Toscana e in Lazio ci sono dei gruppi molto combattivi sotto l'aspetto delle tariffe e della accessibilità appunto del servizio idrico, per cui la situazione è molto appunto a macchia di leopardo, insomma molto variegata sul territorio nazionale. E dunque l'esortazione è sempre quella di essere attivi sul proprio territorio, e vedremo poi nella seconda parte di Respiro quanto essere attivi e quindi uscire di casa, vivere la comunità, serva a tutti e ci aiuti a recuperare forza e fiducia. Dunque in questa prima parte vi abbiamo esortato a riprendervi l'acqua e nella seconda parte invece di Respiro vi inviteremo a riprendervi la terra. Respiro. La terra è benigna, mite, indulgente e dalle richiedenze dei mortali serva continua. Quante cose costretta produce, quante altre spontaneamente distrugge, quanti profumi, sapori, succhi, sensi e colori ci offre, con quanta onestà ci rende i tesori che a lei affidiamo. Quante cose per utile nostro essa alimenta. Lo ha scritto qualche tempo fa Gaio Plinio II. Dunque, bentornati al Respiro, io sono Cristina Carpinelli e, come vi avevo detto nella prima parte, in questa ci riprendiamo la terra. E lo facciamo con Alessandro Franceschini, che guarda caso ha scritto un libro dal titolo Riprendiamoci la terra, edito da Terre di Mezzo. Beh, la considerazione è proprio quella che noi abbiamo sostanzialmente costruito delle città all'interno delle nostre case, perché abbiamo tutte le comodità che ci consentono di non uscire di casa, perché abbiamo appunto la macchina per fare il pane, la macchina per fare lo yogurt, per il gelato, abbiamo l'on demand, abbiamo tutti i televisori con tutti i programmi possibili e immaginabili, quindi è veramente lo stimolo uscire fuori di casa, incontrare le persone, a proprio anche riprendere il rapporto con la terra, con le strutture pubbliche, con gli spazi pubblici, diventa veramente difficile. Ecco, tutta la considerazione rispetto a rendere di nuovo pubblica la terra, quindi a riprendere il contatto proprio con il territorio, con il suolo, con la terra, anche con la T maiuscola, parte proprio dalla considerazione da uscire di casa. Quindi l'invito che facciamo è tutto diciamo il movimento del consumo critico, della sobrietà, della decrescita, parte proprio dalla considerazione che bisogna uscire di casa, riprendere le relazioni sociali e renderle di nuovo pubbliche, perché una delle cose che abbiamo notato più gravi rispetto al fatto che la terra sta diventando sempre di più qualcosa di privato, qualcosa che deve essere edificato, sfruttato, deve essere riempito di rifiuti eccetera, è il fatto proprio che non è più concepita come qualcosa di pubblico, cioè come un bene comune, ma è sostanzialmente l'idea di qualcosa di privato, come un suolo da costruire, un bene che può appunto rivalutarsi nel tempo se è un suolo che da agricolo diventa edificabile, però di fatto perde appunto questo valore di bene comune. Ecco, tu nel corso del libro dai anche delle indicazioni su come fare per riprendersi la terra. Ci sono almeno 3 indicazioni di massima contenute nel libro. Quali sono? Sì, beh, la prima è quella partire dalla considerazione che siamo tutti dei consumatori di terra, quindi qualsiasi azione facciamo noi consumiamo della terra, e la prima azione da fare è quella di cercare di valorizzare anche negli acquisti quotidiani proprio quei comportamenti che servono a rispettare la terra. Noi anche nel libro diciamo non c'è nessuna ambiguità rispetto al fatto di promuovere l'agricoltura biologica e tutte le forme di agricoltura appunto che riducono l'inquinamento, riducono anche l'impoverimento del suolo, quindi la filiera corta, chilometri zero, tutte quelle diciamo azioni che rispettano le comunità della terra e la terra. Poi la seconda è quella di proprio riappropriarci un po' della nostra, del nostro ruolo di cittadini, e quindi l'impegno civile a difendere il suolo laddove ci sono delle speculazioni, degli interessi privati che vanno appunto a ledere l'interesse collettivo. E c'è tutta una serie di esempi anche di movimenti, di comitati che stanno nascendo in Italia. E c'è anche una piccola guida come costruire questi, diciamo, questi movimenti per far sì che effettivamente la politica di gestione del territorio non venga solo diciamo, gestita da interessi privati o da una commissione spesso ambigua tra interessi pubblici e interessi privati, ma torni, diciamo, all'interesse dei cittadini. E l'ultima cosa è forse la parte anche un po' più creativa, un po' curiosa, il fatto di cercare di trasformarci da puri consumatori di terra anche in produttori. E quindi infatti il libro finisce proprio col compostaggio, che è, se vogliamo, l'atto finale in cui si costruisce della terra dai propri rifiuti quotidiani della porzione umida, però di fatto appunto ci sono tutta una serie di comportamenti che ci possono far produrre, quindi dall'orto da balcone all'orto da giardino ci sono tutta una serie di esempi, sono interessanti esperienze che ci sono anche nel nostro paese di orti urbani, di orti appunto condominiali, condivisi, per proprio cercare di tornare a essere produttori, quindi non solo più consumatori, ma produttori in rispetto della terra. Ecco, il libro non risparmia qualche colpo anche a quel bio che a un certo punto, facendo profitto, finisce per perdere di vista il concetto fondante proprio del bio, cioè quello che dici tu nel libro, riprendiamoci la terra, è che il rischio anche del bio e dell'agricoltura biologica quindi è che nel momento in cui si fa profitto il produttore può essere tentato e finire ad esempio per coltivare un solo prodotto, no? In questo caso che si fa? Noi cittadini cosa possiamo fare? Beh, in assoluto privilegiare tutte quelle esperienze proprio di vicinato, per cui la piccola azienda agricola che fa agricoltura biologica, che hanno una, diciamo, un tipo di approccio sistemico, cioè l'agricoltura biologica non è semplicemente il dire vabbè, invece di un campo di girasoli coltivati con antiparassitari e super concimati, io adotto una tecnica di agricoltura biologica, quindi faccio delle altre tecniche, proprio tecnologie di coltivazione. Ecco, no, non è solo questo. L'agricoltura biologica è un complesso sistema proprio di rapporti tra le varie specie, tra le varie tecniche di coltivazione. Di fatto infatti si parla di aziende agricole che riescono a far convivere allevamento e orticoltura, agricoltura eccetera in un unico sistema. Scegliere appunto quelle grandi produzioni biologiche, per cui si parla alla fine di monoculture lo stesso con tecniche biologiche, effettivamente ha poco senso. Certo, sicuramente è meglio che prendere le cose, diciamo, i prodotti dell'agricoltura convenzionale, però mi piacerebbe che anche all'interno del mondo del biologico proprio partisse un dibattito per vedere che effettivamente l'agricoltura biologica non è solo quantità, ma deve essere soprattutto qualità, per cui proprio un processo organico, per cui le aziende agricole si muovano su un terreno complessivo e non solo su un prodotto da fare in grandissime quantità per le catene della grande distribuzione. Ripeto, sempre meglio l'agricoltura biologica di quello convenzionale, però stiamo attenti a non fare appunto dell'agricoltura biologica un grande business che sostituisce delle tecnologie ad altre. Ecco, poi un'altra cosa che mi ha molto colpito all'interno del tuo libro, che ripeto si intitola Riprendiamoci la terra, riguarda le considerazioni che sono state fatte sul mondo contadino, cioè queste persone, questa categoria che in qualche modo, quando viene presa dentro dall'agricoltura intensiva, viene tritata in qualche modo e quasi, pur lavorando la terra, perde il contatto con la terra stessa, e quindi si spazzano via anni e anni di cultura, di tradizioni, di storia, quindi di conoscenza anche. Sicuramente, l'immagine che abbiamo del contadino è un'immagine, forse soprattutto chi vive in città, un'immagine un po' bucolica, così un po' anche legata appunto al mondo della terra. Di fatto purtroppo negli ultimi anni i contadini, loro malgrado, sono diventati parte, ingranaggi di un meccanismo che è puramente industriale, per cui di fatto dalla coltivazione appunto del mais rispetto a un'altra esperienza proprio industriale c'è poca differenza, perché si tratta di applicare tecnologie e protocolli che diciamo dimenticano quasi la terra, e soprattutto che considerano, e questa forse è la considerazione di base di tutto il libro, considerano la terra come una mera superficie che deve fruttare, e quindi che deve sfruttare in qualsiasi modo il più possibile. Ecco, il rapporto con la terra quindi deve essere ripreso proprio dalla sapienza dei contadini. Io vivo in Veneto e qui proprio lo stupro del territorio da questo punto di vista è veramente evidente. E tutti i saperi di generazioni si sono persi appunto, e non lo dico con nessun tono nostalgico, però si sono persi e vanno recuperati, perché di fatto certe tecniche agricole appunto non industriali ma legate appunto al sapere di millenni di esperienza sono veramente anche tecnologicamente più sane e più produttive rispetto all'agricoltura industriale, e questo lo stanno capendo in molti. Infatti molti stanno ritornando senza nessuno spirito nostalgico ma uno spirito proprio di innovazione tecnologica alle antiche tecniche che rispettano più il terreno, perché di fatto poi il rischio è che ci si trovi di fronte a un deserto, cioè nel senso che la terra sfruttata, impoverita e che per alcuni anni ha dato grandi raccolti e grandi capacità produttive, poi di fatto dopo finita questa epoca diventa veramente un suolo desertificato e quindi incapace di rendere per le generazioni future. Prima di salutarvi vi segnaliamo alcune iniziative a cui potete partecipare. In primo luogo Puliamo il Mondo, la più grande partecipata e planetaria iniziativa di volontariato ambientale che andrà avanti fino a domenica. Lunedì 28 invece a Milano inizia l'Energy Summit che durerà 3 giorni, si svolgerà qui nella sede del Sole 24 Ore e per l'occasione lunedì è in edicola assieme al Sole 24 Ore un rapporto sullo sviluppo sostenibile. E di rinnovabili e di sviluppo sostenibile parleremo anche la prossima settimana, sempre qui a Respiro. Vi ricordo che potete ascoltarci sabato alle 16.30 e in replica domenica alle 14. Questa era l'ultima segnalazione, Respiro termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ringrazio anche per le segnalazioni che ci inviate all'indirizzo respiro@radio24.it. Buona giornata da Cristina Carpinelli.